1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E allora, cari italiani, finito il ponte, eh? Finita la pacchia, noi siamo stati qui a lavorare e voi? E voi? Belli abbronzati, rilassati, tranquilli, debosciati ovviamente nelle vostre colazioni lunghe. Oggi tornate a portare i bambini a scuola, a andare al lavoro. E va bene, va bene. Noi vi teniamo compagnia fino alle 9. Con che cosa? Beh, parleremo di questo scontro Bindi-De Luca. Avremo ospite il segretario della Commissione Antimafia, l'onorevole Marco Di Lello, questa alle 8.40. Ma parleremo anche di una storia che è una storia, una piccola storia, ma a volte dalle piccole storie si raccontano anche grandi spaccati di un paese. Succede in provincia di Treviso, dove un dipendente pubblico che ha rubato dei soldi, ha patteggiato per questo, è stato reinserito al lavoro dal giudice del lavoro. Perché? Perché la pubblica amministrazione non si è costituita parte civile e quindi, nonostante il danno accertato e il reato accertato, rientra al lavoro in una scuola. Evviva! Ne parleremo alle 8.20 raccontando questo caso. Intanto andiamo a leggere i giornali, In questo mercoledì 3 giugno i titoli, il Sole 24 Ore si concentra sulla Grecia. Sapete che c'è una trattativa in corso per i soldi che Atene deve restituire al Fondo Monetario. Il titolo del Sole è: Grecia inflazione, spingono euro e rendimenti dei bond. Mentre la vicenda De Luca che denuncia Rosi Bindi è un po' il piatto ricco di tutte le altre prime pagine. PD, lo scontro arriva in tribunale, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica invece PD, resa dei conti, Cantone, la Bindi sbaglia su De Luca. C'è un'intervista al presidente della commissione dell'autorità anticorruzione. Il Messaggero, Renzi, mossa sugli immigrati. Dopo il voto il premier cerca la scossa, subito stretta su clandestini e conflitto di interesse. Il Giornale, vogliono arrestare la Bindi. La Stampa, nel PD ora è guerra di denunce. Il Fatto Quotidiano, De Luca il fuorilegge. Il Manifesto, il questurino, e c'è la foto di De Luca. Mentre Libero, Renzi va alla guerra, ecco perché può perderla. Alcune delle aperture le vedremo più avanti. Una interessante di Avvenire. Io ho fatto una battuta nei giorni scorsi quando commentavo i dati del Sole 24 Ore. Battutaccia, i pensionati sono arrabbiati, ha detto ci auguri di morire. Ma chi augura di morire? A nessuno. Ma Avvenire mette in prima pagina questo titolo: Zavorra sul futuro, la spesa per debito e pensioni. Pensioni frena gli investimenti. Vabbè, ma la vedremo. Intanto il terremoto del calcio mondiale, l'avete visto? Sepp Blatter, Josef Blatter, avete sentito? Si è dimesso prima. Ha fatto finta di niente dell'inchiesta dell'FBI americana che ha terremotato mezza FIFA. Si è fatto rieleggere, dopo 4 giorni dice mi dimetto. Anche perché raccontano tutti i giornali, una mail inchioda il suo vice, finisce l'era Blatter alla FIFA. Questo è il titolo di pagina 2 del Corriere della Sera. Gianni Santucci racconta come sia arrivata la notizia sul New York Times di questa mail nella quale il segretario generale della FIFA, il francese Jérôme Valque, testimoniato in una mail, in pratica avrebbe preso, questa è l'accusa, una mazzetta da 10 milioni di dollari per pilotare i mondiali in Sudafrica, pilotare nel senso dare l'assegnazione al Sudafrica dei mondiali quando ci sono stati nel 2010, credo. E comunque eccolo qui la mail in cui il presidente della federazione sudafricana chiede al vicepresidente della FIFA di girare 10 milioni di dollari a Jack Warner, numero uno del calcio caraibico agli arresti e numero due della FIFA. Perché poi il bello era questo, cioè tutto in una mail, c'è una lettera pubblicata ieri da un giornalista britannico. In questa lettera, in maniera proprio tranquilla, il presidente della Federazione del Sudafrica comunica al vicepresidente della FIFA il pagamento di 10 milioni di dollari, dicendo dateli pure a questo qui. Cioè, se è una mazzetta fatta così alla luce del sole, è davvero una roba incredibile. Comunque, per Repubblica, anche Blatter è indagato per corruzione. Questa è la novità che ha spinto lo stesso Blatter a dimettersi. Anche il Messaggero, la maxi tangente da 10 milioni in una lettera ricevuta dal suo vice. È la maxi tangente per l'assegnazione dei mondiali in Sudafrica. Ora tutti dicono Blatter se ne va, meglio così. Però non ho visto grandissime inchieste. Sì, si diceva il metodo Blatter era questo, ma non avevo visto questi grandi coraggiosoni prima a dire ah, una vergogna, eccetera. Prima molti l'hanno votato il sistema Blatter, quello che ora viene stroncato da tutti, e tutti a dire lo sapevamo, è 40 anni che veniva votato dalla maggior parte delle federazioni, eppure adesso che è caduto tutti a dire meno male che se n'è andato, non se ne poteva più. Va bene, ma comunque tutte queste cose riguardano il calcio mondiale, più la politica che il calcio e la FIFA, e comunque trovate su tutti i giornali, molti giornali dedicano anche pagina 2 e 3. C'è invece su Libero il Giornale la testimonianza e l'intervista di una madre molto arrabbiata per il viaggio del presidente del Consiglio Renzi in Afghanistan, le foto in mimetica, e la mamma di David Tobini, soldato morto in Afghanistan, prima ha fatto uno sfogo su Facebook dicendo Renzi non doveva portare la mimetica perché il sangue di mio figlio merita più rispetto. Poi si fa intervistare dal quotidiano Libero. Intervistata da Chiara Giannini, questa madre dice: Renzi non merita di indossare quella divisa. Mi è uscito dal cuore questo sfogo, perché non ci si può ricordare dei militari e dei caduti solo quando fa comodo. Mio figlio e tanti altri ragazzi hanno perso la vita per questo paese durante il resto dell'anno. Nessuno si ricorda di loro. Come si merita allora, secondo lei, signora, la divisa? La si merita viaggiando come viaggiano quei ragazzi, mangiando quello che mangiano, dormendo nelle tende come loro, rischiando la vita come loro. Io l'ho fatto. Sono stata in Afghanistan a vedere dove e come è morto mio figlio, volando su un C-130, non su un volo di Stato. Ma se Renzi leggesse la sua lettera e decidesse di incontrarla, che farebbe? Che gli direbbe? Gli ho scritto 3 volte, dice questa madre, e non si è mai degnato di rispondermi se non attraverso i suoi portavoce. Potrei anche decidere di dire ora no, grazie, è troppo tardi. Comunque, così parla Anna Rita Lomastro, la mamma di David Tobini, il parà della Folgore morto in Afghanistan nel 2011 e che ha fatto questo sfogo dopo aver visto le foto del viaggio del Presidente del Consiglio in Afghanistan. Trovate l'intervista a pagina 5 di Libero. Veniamo a cose più tecniche che però riguardano, meglio più italiane, volevo dire che riguardano però molte persone che viaggiano. Attenzione, c'è un avvocato di Cinisello Balsamo in provincia di Milano, racconta così Il Giorno, che appellandosi, e non è neanche la prima volta, appellandosi alla Carta dei diritti del passeggero, ha vinto una causa contro Alitalia. Per che cosa? Per disservizi, ritardi, aerei in ritardo, il volo in ritardo, risarcito, molti protestano e basta, io ho usato la Carta dei diritti. Un avvocato vince una causa, dice spesso snobbate le tutele esistenti. Intervistato da Rosario Palazzolo a pagina 18 del Giorno, dice: il ritardo di un volo può costare caro alle compagnie aeree. Parola di Massimiliano Lanci, avvocato di Cinisello, che per la terza volta, vedete che non è la prima, la terza volta in pochi anni, ha costretto Alitalia a risarcire lui e la moglie per i disservizi subiti in seguito a ritardi, incomprensioni in occasione di 3 diverse vacanze. L'ultima sentenza, che è di questi giorni, si riferisce a un fatto accaduto nel dicembre 2012. L'avvocato Lanci e la moglie erano rimasti bloccati a Malpensa in attesa di partire per New York, un ritardo di oltre 5 ore per presunti problemi tecnici dell'aereo. E l'avvocato cita l'Italia impugnando la Carta dei diritti del passeggero, perché dice: pochi sanno che in caso di ritardo le compagnie sono tenute ad assistere i passeggeri garantendo alcuni servizi e soprattutto una compensazione economica per disagi subiti. Per carità, ha ottenuto, lui è avvocato, 700 euro di rimborso. Mi verrebbe da dire, se uno deve andare da un avvocato a fare una causa di questo tipo, magari 700 euro di rimborso mi vanno a pagare l'avvocato, o no? No? Mi viene questo dubbio. mentre sei un avvocato, insomma, è un po' più facile farsi il ricorso. Vabbè, comunque, il concetto è che vuol lanciare il messaggio questo avvocato: i passeggeri possono tutelarsi con la carta dei diritti del passeggero. Ma eccolo qui l'articolo. L'articolo che ci fa tenere le mani sul volante, ci fa appoggiare le tazzine di caffè bollente se state facendo colazione, se siete in treno, come sempre, posizione da atterraggio di emergenza. L'articolo che ci fa più pensare di questa giornata lo racconta Claudia Osmetti sul Libero. Sono le panzane, anzi definiti sfondoni in moschea, o uscite tragicomiche di alcuni predicatori islamici. Sentite lo stupidario di alcuni di costoro, come Muashid Chiad Han, titolare di un programma dell'emittente turca 2000 TV, sulla masturbazione. L'onanista musulmano che si masturba si ritroverà con le mani incinte nell'aldilà. Le mani incinte nell'aldilà. O ancora, sentite dal Pakistan questo pacato Maulana Fazlur Rehman: le donne in jeans causano inflazione e terremoti. Le donne in jeans, l'industria del denim e gli economisti e geologi hanno preso un abbaglio, è la vera causa dei terremoti e quindi il vero nemico, dice questo imam radicale, ogni donna che indossa i jeans. E poi ci sono quelli per cui il concetto di stupro è un'invenzione degli europei, perché dovremmo seguirli. Ma ancora, in Uganda un radicale islamista religioso dice: la nostra società è impregnata da omosessuali, corruttori e truffatori, sono loro la causa e il motivo per cui non piove abbastanza in Uganda. Non piove, colpa degli omosessuali in Uganda. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, etichetta Rossoner, il conduttore che crea un'atmosfera. Eccoci qua. Evviva, speriamo una bella atmosfera. Allora, c'è chi ci scrive: ma se tu vinci la causa, le spese non sono a carico tuo, quindi non parlare se sei un ignorante. Va bene, dai, non parlo, ma magari non parlassi più me stessi a casa a dormire. Allora, eccoci qua. Eccoci qui. Allora, il PD volano stracci o volano piatti in faccia, come ci ha detto prima Paola Saluzzi, perché che succede? De Luca aveva detto: querelerò Rosi Bindi, anzi prima delle elezioni, quando Rosi Bindi ha fatto il suo nome tra gli impresentabili, non vedo l'ora e godrò per questo, querelerò Rosi Bindi, e detto fatto. Ieri ha depositato il neo governatore non ancora insediato in Campania, come primo atto alla procura di Salerno, la denuncia nei confronti di Rosi Bindi. Le accuse sono pesantissime, non solo diffamazione, ma anche attentato ai diritti politici costituzionali e abuso d'ufficio. Questi sono i reati ipotizzati nella denuncia presentata da De Luca nei confronti della presidente della commissione antimafia. Ora tutto verrà traslato a Roma, alla procura di Roma, che ha competenza sulla commissione antimafia. E De Luca parte subito all'attacco: denuncio Bindi, cambiate la Severino. Questo è il titolo del Corriere a pagina 4. Rosi Bindi, reazioni che non ci sono ufficiali. Monica Guerzoni ne raccoglie qualche parere: figuriamoci se voglio rispondere a De Luca, avrò diritto di festeggiare il 2 giugno con i miei nipoti? No, risponde così Rosi Bindi. E poi quella di De Luca è una denuncia priva di ogni fondamento, un atto puramente strumentale che ha scopi diversi da quelli che persegue la giustizia e che pertanto non mi crea alcuna preoccupazione. Aveva detto a Piazza Pulita un paio di giorni fa Rosi Bindi: non può querelarmi e non lo farà, gli faccio tanti auguri, e invece la querela è arrivata. E poi aveva detto ieri al Corriere: pretendo un risarcimento. Risultato dal PD. Risultato invece: Rosi Bindi è stata querelata non solo tra l'altro da De Luca, ma anche Sandra Lonardo Mastella, cioè la moglie di Mastella, finita anche lei negli impresentabili, e Luciano Passariello di Fratelli d'Italia, un altro finito tra gli impresentabili, anche loro hanno denunciato Rosi Bindi. Il clima nel partito è davvero tormentato. Sentite che cosa ha detto Orfini del Partito Democratico. Ha detto, scrive Repubblica: inaccettabile la decisione di Rosi Bindi di chiedere un risarcimento al partito. Quasi quasi De Luca fa bene a querelarla. Questo ha detto il presidente del Partito Democratico. Ma sul tema, l'intervista più interessante è quella di Concita Sannino su Repubblica a Raffaele Cantone, presidente della commissione dell'Authority Anticorruzione. Perché è interessante? Perché Cantone, che è stato tirato un po' per la giacca qua e là prima delle elezioni, è stato zitto per ovvi motivi di opportunità a ridosso delle elezioni. Ora però parla per la prima volta su questa vicenda e dice: non do per scontata l'interpretazione secondo cui De Luca debba essere sospeso subito dopo la proclamazione. La questione Severino è controversa, dice Cantone. Esiste secondo me un'altra interpretazione. Poi cita gli articoli 7, 8. E l'interpretazione è questa. Se si sospendesse subito De Luca senza consentire ai consiglieri eletti di insediarsi e al consiglio di funzionare anche in rapporto alla giunta, bisognerebbe dichiarare lo scioglimento del consiglio per impossibilità di funzionamento e la sospensione prevista dalla Severino diventerebbe di fatto una decadenza. Eppure, chiede Repubblica, la recente sentenza della Cassazione ha stabilito che la sospensione è un atto vincolato e che in presenza di presupposti non esiste valutazione di discrezionalità. Certo, è così, risponde Cantone, ma la domanda è: quando si verificano i presupposti? Si radicano nel momento in cui c'è la sola nomina a governatore, cioè ora, oppure quando l'amministratore ha assunto regolarmente le funzioni dalle quali deve essere momentaneamente allontanato? Cantone, così diranno che lei ha una tesi pro Renzi e pro De Luca. So bene, risponde Cantone, che il dramma di questa storia è che una vicenda squisitamente tecnico-giuridica sarà letta con una chiave di politica o di strumentalizzazione, ma sono letture che non mi toccano. Credo invece che il Presidente del Consiglio debba fare appello a tutto il meglio dell'Avvocatura dello Stato e dei giuristi italiani, senza pressioni, senza timore alcuno, perché la soluzione che si trova oggi farà giurisprudenza. Quindi Cantone dice che non è detto che la sospensione, l'eventuale sospensione di De Luca debba accadere ora che è stato eletto, ma forse solo quando si sarà insediato, con una giunta nominata e il consiglio insediato. Questo permetterebbe, in caso di sospensione, di continuare, altrimenti se si sospende ora si rischia la decadenza e tutto. Poi, per la verità, Cantone parla anche pubblicamente della vicenda Impresentabili. Mi faccia fare una premessa, dichiara Cantone. Credo che l'onorevole Bindi, nonostante non avesse una specifica esperienza, stesse facendo benissimo il suo lavoro da presidente della Commissione Antimafia. Ma questa vicenda degli Impresentabili è stato per me un grave passo falso, un errore istituzionale. Per vari motivi. È rischiosa e fuorviante la logica di istituzionalizzare gli Impresentabili, i quali per loro stessa natura possono essere candidabili, eleggibili, non indagati, eppure non idonei ad entrare nella pubblica amministrazione, ad esempio per spregiudicato trasformismo. Secondo, in questo modo si rischia di produrre un'eterogenesi dei fini, cioè di dare il bollino blu a tantissimi che, non vedendosi inseriti in quella lista, si sentono pienamente legittimati. E se l'aspettava che De Luca l'avrebbe querelata? Sì, lo aveva detto, anzi, da cittadino mi augurerei che come governatore De Luca sarà puntuale e preciso con tutte le altre promesse, così come lo è stato nel depositare la denuncia, così Cantone, che quindi fa anche una puntura a De Luca, dice: aveva promesso di querelarlo, l'ha fatto, ora sia coerente e prometta e mantenga quello che ha detto di voler fare da governatore. Comunque, la resa dei conti è la frase che più viene utilizzata. Ieri Maurizio Belpietro, giustamente su Twitter, il direttore di Libero, ha scritto: se qualcuno avesse depositato il copyright della frase "la resa dei conti" del PD, a questo punto sarebbe milionario, milionario. La resa dei conti. Ci sarà lunedì la resa dei conti? La sinistra alza la testa, la sinistra del PD. Renzi è arrabbiato. Pare che Renzi, così scrive il Messaggero, voglia proprio stroncare e cambiare il partito. Anche la stampa dice: basta, vuole cambiare il partito. Lunedì ci sarà la direzione del PD. Qualcuno dice che addirittura potrebbe essere rinviata perché il clima sarebbe troppo da rissa politica. Sta di fatto che staremo a vedere, e sta di fatto anche che sono 15 pagine, 15 di ogni quotidiano dedicate oggi al dopo voto. Mo basta. Faccio un appello ai direttori di giornali, che non verrà ovviamente ascoltato, alla maggior parte dei giornali. Mo basta. Da domani cominciate anche a scrivere cose che interessano, direi, l'80-85-90% degli italiani, se no poi non lamentatevi che i giornali non vendono più. Comunque, pagina 10 del Corriere della Sera, parte la crociata delle libertà. Berlusconi, un po' ringalluzzito dalla vittoria di Toti in Liguria, certo non dai risultati di Forza Italia, che è al minimo storico, ma ha capito che se scende in campo lui e mette la faccia, ancora recupera dei voti, vorrebbe far partire questa crociata delle libertà, un giro in tutta Italia, nelle 100 province, certo non quelle abolite, ma nel senso, per dire, un giro in tutta Italia per rilanciare il centrodestra. E che dire, ci sono tante altre cose sulle regioni, ripeto, 15 pagine al giornale, ma lasciamo stare. La Grecia invece è ancora l'apertura del Sole 24 Ore con il nostro Mauro Meazza. Buongiorno Alessandro. Ma senti, visto che sei su questo conteggio delle pagine, questa contabilità delle pagine, noi te ne proponiamo 16 sul IMU e TASI. Vabbè, però è una cosa un po' purtroppo un po' più per concreta. Per cambiare anche un po' la tua... Anche perché non vorrei adesso guastare il tuo buon umore così di mattina e neanche quello degli ascoltatori, però il 16 di giugno c'è la scadenza per pagare. Ah, quindi... mancano 13 giorni. Lo so, però diciamo, tocca pagare l'IMU e la TASI, ci sono tutte le novità. Tra l'altro c'è anche, come già abbiamo sperimentato l'anno scorso, un servizio di casella postale elettronica, una email, ma non volevo dirlo perché so che Angelino mi ascolta, per mandare i quesiti e poi appunto daremo risposta sia sul sito che pubblicando le risposte più interessanti sul giornale. Ma questo per l'IMU e la TASI. Invece sulla Grecia c'è tempo fino al 30 giugno per pagare, stavolta però pare che non dobbiamo pagare noi caro Alessandro, non per il momento, a meno che non fallisca la Grecia, e quindi c'è il rischio che riesce a capirla, come puoi leggere oggi su Sole 24 Ore c'è appunto questa specie di proposta e controproposta, vediamo se si troverà un accordo. Il tempo comunque stringe, non voglio dire che è una settimana, dillo tu, sono importanti. È la settimana decisiva per l'assegnazione della Champions League, questa è l'unica cosa sicura. Ma sai che questo mi fa venire in mente, perché curiosamente noi, sai che stiamo dando le guide verdi con il Sole 24 Ore, guide verdi del Turin, domani guarda un po' ci sarà proprio quella di Barcellona, non so se Allegri se ne procurerà una copia così da poter visitare la città, naturalmente dopo sabato. Non dico niente, se no poi i miei amici bianconeri mi accusano di gufare e non voglio invece essere iscritto a questo. Invece grandi auguri alla Juve, non gufiamo niente. Ti segnalo che potrebbe essere una settimana decisiva, questa o la prossima, non sappiamo ancora bene, anche per il Jobs Act, Angelino sei in ascolto, cioè la riforma del lavoro, perché devono completare con 4 decreti e tra l'altro si parla anche di una revisione dell'apprendistato che potrebbe essere esteso sopra l'attuale limite dei 29 anni. Potrebbe essere una misura importante. Se vuoi saperne di più, leggi il Sole 24 Ore oggi a pagina 6. Vedi che c'è un po' di tutto. C'è anche una notizia che do in ultimo, non molto rassicurante: ci sono anche i DURC pazzi. Ti ricordi che una volta c'erano le cartelle pazze? Girano per le strade. Sono pericolosi, ti aggrediscono. No, però puoi stare tranquillo. C'è una, come trovi sulle pagine di norme e tributi, caro il mio spiritosone, il documento unico di regolarità contributiva è pazzo. E a volte non è aggiornato tempestivamente, quindi ti accusa di irregolarità che non hai. E quindi sono dei DURC pazzi, come si potrebbe dire. Se ne incontro uno, lo strozzo. Una volta c'erano le cartelle pazze, non essere violento. Una volta c'erano le cartelle pazze del fisco, adesso abbiamo i DURC pazzi. Ecco, mi hai fatto anche impaperare stamattina. Eccole. Tutto ciò premesso, caro Alessandro, ci sentiamo domani e traffico! Ho 4 anni, non so leggere i giornali, ma ho accolto i 6 domini. Oh, evviva! Allora, adesso voglio concentrare sull'apertura. Ah, sì, molti mi scrivono che sulla questione delle spese legali in realtà ho ragione io, come voleva si dimostrare che in realtà i giudici possono decidere, come si sa, di stabilire le spese legali a metà o come vogliono, anche se uno vince una causa, ma d'altronde è dimostrazione che a volte si scrivono gli SMS perché si hanno le dita. Allora, vorrei concentrarmi sull'apertura di Avvenire. L'apertura di Avvenire è questa, perché la scorsa settimana, o 10 giorni fa, quando il Sole 24 Ore già mise in evidenza questa cifra, cioè che se ci fosse il contributivo per tutti i pensionati oggi si risparmierebbero circa 46 miliardi l'anno. Io feci una battutaccia che ancora mi rimproverano sui pensionati, insomma, mi accusarono di avere augurato la morte dei pensionati, ma figurarsi. Oggi Avvenire torna sul tema, proprio su questa linea: col contributivo per tutti si risparmierebbe 46 miliardi all'anno. Pietro Saccò, pagina 4 e 5 di Avvenire. Questo squilibrio ogni anno va coperto con le imposte e senza correzioni aumenterà ancora, e pagano i giovani. Sto leggendo il sottotitolo di Avvenire: e pagano i giovani. Altro che mi accusano di essere contro i pensionati, magari sono per i giovani, o meglio sono per un'equità, sono per tutti. Se no, diciamo pure chiaramente, cari giovani, morite, schiattate voi nella povertà, nella miseria, voi e i vostri figli, che poi sono gli amati nipotini dei pensionati. Comunque, Pietro Saccò su Avvenire: quando ha affidato a Tito Boeri la guida dell'INPS, Matteo Renzi non poteva non sapere quello a cui stava andando incontro. Da anni, infatti, il professore della Bocconi, da coordinatore del portale lavoce.info, pubblica studi che mostrano l'enormità dello squilibrio del sistema previdenziale italiano. Coerente con la sua storia, una volta conquistata la poltrona, Boeri ha avviato l'operazione Porte Aperte, definita un primo passo di operazione di trasparenza, con cui l'INPS sembra avere l'obiettivo di imporre la questione pensioni nell'agenda del dibattito pubblico. Una questione scomodissima per chi si trova a governare. Ma d'altronde, secondo indagini sui redditi della Banca d'Italia, siamo arrivati al punto in cui in media gli ultra 65enni, sentite bene questa frase, gli ultra 65enni guadagnano di più di chi ha meno di 45 anni. Allora, vi sembra un sistema equilibrato questo? Se l'INPS era riuscita solo in parte a costringere l'opinione pubblica a affrontare la questione, la sentenza della Corte Costituzionale sulla riforma Fornero ha fatto il resto. All'origine dello squilibrio previdenziale c'è il passaggio dal sistema retributivo a contributivo della riforma Dini del 95. Vabbè, comunque ci sono tutta l'analisi e quindi anche l'ipotesi di correzione. La correzione ipotizzata è questa: una tassa del 20-30% sulla differenza tra l'ammontare degli assegni sopra i 3.000 euro calcolati con il retributivo e quello che spetterebbe col sistema contributivo. Io dico, perché non si può fare? Perché non si può ricalcolare le pensioni attuali col sistema che verrà applicato dalla riforma Fornero in avanti a tutti? Non si può fare? E se il contributivo vi dirà che vi spettano meno soldi, cari pensionati, li restituite, si paga una piccola tassa su questa differenza. Che male c'è? Che tipo di attentato è questo? Non si capisce. Se no, ripeto, non si può fare, non si vuol fare. Giovani, morite nella miseria. Ecco, questo è il messaggio. Non avrete mai la pensione, voi e i vostri figli, colpa di averli fatti. Allora, a che ora chiudiamo qua? Tra 3 minuti, siamo già in diretta su Periscope. Bene, sì, è entrato Lorenzo Nespoli in studio. Allora, che succede a Ragusa? Amici di Ragusa, siete un po' troppo focosi, soprattutto i maschi, bisogna dirlo. C'è una pagina di Repubblica che titola così: Ragusa a luci rosse, boom di case chiuse e le mogli denunciano basta, chiudetele. Alessandra Ziniti fa un viaggio a Ragusa dove pare ci sia una proliferazione incredibile di case chiuse, soprattutto per l'arrivo di due dominicane dal fisico statuario di 25 anni che arrivano una volta al mese, un paio di volte al mese a Ragusa, fissano appuntamenti online con grande anticipo, vanno dai 200 ai 500 euro e pare che ci sia la fila e la squadra mobile di Ragusa sta chiudendo case chiuse su case chiuse a Ragusa. Oh, ma che sta succedendo? Eccola qua, faccio vedere anche in diretta chi è su Periscope la può vedere. Ragusa, luci rosse, boom, di case chiuse. Le mogli ovviamente sono abbastanza arrabbiate. Vi segnalo anche qualche notizia qua e là in chiusura. Una è questa, un reportage di Andrea Galli del Corriere della Sera, inviato al confine tra l'Italia e l'Austria, racconta come i poliziotti austriaci mandino via e rispediscano al mittente, in pratica sospendendo il trattato di Schengen sulla libera circolazione delle persone, soprattutto per il G7 che ci sarà in Germania, mandano indietro tutti gli immigrati. Appena vedono una persona di colore salire su un treno in Italia per cercare di attraversare a Innsbruck il Brennero e andare in Austria, appena lo individuano lo rispediscono al mittente. Evviva, questa è l'Europa. L'Austria chiude il confine del Brennero ai profughi che sognano l'Europa. Eccolo qua, Schengen è sospeso. Andrea Galli racconta questo bel reportage, anche drammatico per certi versi, sul Corriere della Sera. Vabbè, c'è da dire che c'è il primo hotel che non lo ha fatto per farsi pubblicità e conquistare una pagina su tutti i giornali. No, no, malpensanti. Il primo hotel che vieta i selfie ed è in Versilia. Si tratta, ecco, così lo cito anch'io, così altra pubblicità, l'hotel Byron di Forte dei Marmi, dove arriva anche Naomi Campbell ogni tanto. L'anno scorso ha detto Naomi Campbell ha avuto questa piccola pretesa: sequestrate tutti i cellulari di tutti quelli che sono nell'hotel perché non voglio un selfie. Il titolare gli ha fatto capire che non si può fare, ma ha vietato il selfie in hotel. E quindi paginate, paginate, commenti, è giusto, è sbagliato, eccolo qua. Ma siamo ancora alla carta costa, l'articolo più inutile sui giornali, ancora ci sono ricascati, ancora basta. Finisce la scuola, venerdì i miei figli finiscono la scuola, e anche Libero come Repubblica la paginata vacanze senza compiti. Basta, vi prego, questo dibattito, fate capriole, salti e non compiti. E poi, come ho ribadito la scorsa settimana, i figli dei miei amici cinesi che vanno nella stessa scuola dei miei figli e vanno dal lunedì al venerdì a scuola, e il sabato invece che fare capriole vanno tutto il giorno a imparare cinese alla scuola cinese, e non si lamentano, non si lamentano, ci mangeranno in testa, ci mangeranno in testa, mentre noi basta compiti, basta, basta. Ma chi se ne frega?